344. Sformato di pasta lievita. Questo sformato di pasta lievita serve come di pane per mangiare con esso il suo contenuto, che può essere un umido qualunque di carne o di funghi. Farina d'Ungheria grammi 300, burro grammi 70, altro burro grammi 30, lievito di birra grammi 30, rossi d'uovo numero 3, panna o latte buonissimo decilitri 2, sale quanto basta. Vi avverto che la panna sarà troppa al bisogno. Con un quarto della detta farina, il lievito di birra e un poco della detta panna tiepida, formate un panino come quello dei Krapfen e mettetelo a lievitare. Intridete il resto della farina coi grammi 70 di burro sciolto d'inverno, i rossi d'uovo, il sale, il panino, quando sarà cresciuto del doppio, e tanta panna tiepida da ottenerne una pasta di giusta consistenza da potersi lavorare col mestolo entro una catinella. Quando con la lavorazione darà cenno di distaccarsi dalle pareti del vaso, mettetela a lievitare in un luogo tiepido e ciò ottenuto versatela sulla spianatoia sopra a un velo di farina e con le mani infarinate spianatela alla grossezza di mezzo centimetro. Prendete uno stampo liscio col buco in mezzo della capacità di circa un litro e mezzo di acqua, perché con la pasta deve riempirsi solo per metà. Ungetelo e infarinatelo e, tagliata la pasta a strisce, disponetele in questa maniera. Ad ogni suolo di strisce, finché ne avrete, ungetele coi grammi 30 di burro soprindicato, servendovi di un pennello. Coprite lo stampo e, messo nuovamente a lievitare il composto, quando sarà arrivato alla bocca, cuocetelo al forno o al forno da campagna. Riempitelo dopo averlo sformato e mandatelo in tavola per servire 5 o 6 persone.